E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Sono le 15:05 minuti primi, oggi è mercoledì 19 di marzo e infatti va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16 che in gran parte delle carceri italiane è proprio l'ora di una delle tante conte che subiscono i detenuti e le detenute. E allora diamo subito la parola a loro, come avviene quando ci giungono le parole appunto dal di là delle mura. Ci è giunta una lettera proprio oggi, datata 10 marzo, quindi è appena arrivata e viene proprio da Rebibbia, quindi è importante perché segnala qualcosa che sta per succedere. Vedremo che cosa succede e chiaramente ne necessita anche del nostro contributo, nostro intendo tutti coloro che in qualche modo diciamo non amano le carceri, non amano mandarci la gente dentro, vogliono stare dalla parte di chi sta al di là delle mura, ritengono nostri fratelli e nostre sorelle coloro che vengono incarcerati e vogliono fare una battaglia per non solo cambiare le condizioni di chi sta dentro ma proprio abolire quel maledetto carcere. Dunque la lettera parla appunto di un ragazzo, dovremmo essere un po' generici perché appunto non vogliamo esporre il detenuto che ci ha mandato questa lettera a ritorsioni, già ne ha subite tante, perché ci dice il detenuto che vi scrivo da Rebibbia, ma probabilmente dice quando riceverete questa lettera mi avranno già spedito da qualche altro fottuto carcere. Che cosa è successo? Qualche giorno fa mi hanno fatto un rapporto disciplinare, ma hanno ritirato i cartellini identificativi per dover essere scortato ovunque dalle guardie e soprattutto denunciato al magistrato per istigazione alla sommossa. E vabbè, e poi racconta gli interrogatori che ha avuto, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Che purtroppo un altro detenuto tutto questo è avvenuto per l'infamata di un fottuto fascio. Questo è evidentemente un detenuto come lui, che però ha fatto l'infamata, vuol dire ha fatto la spiata sul fatto che lui stava preparando le mobilitazioni del carcere di Rebibbia, come anche di altri carceri, che avverranno dal 5 aprile al 20 aprile prossimo, e su questo appunto dovremo portarvi a riflettere. Allora mi hanno praticamente poi qui parla dell'ispettore che l'hanno ritorsioni, denunce, eccetera. Ora ho il blocco della posta in entrata e comunque ha la censura, e quindi infatti ha usato uno stratagemma per mandarci questa lettera. E poi quello che nota è anche che questa dura repressione che lui ha subito, come così l'hanno dichiarato, organizzatore di sommosse, probabilmente si sta organizzando un periodo dal 5 al 20 di 15 giorni al 20 aprile di mobilitazione in tutte le carceri e anche fuori delle carceri, per sottolineare appunto i problemi che sono tantissimi. Non c'è un vero obiettivo alla base di questa mobilitazione. È stata anche preparata, questo è il mio modesto contributo critico, perché poi bisogna criticare per migliorare, è stata anche preparata da chi l'ha lanciata, quindi queste due settimane di mobilitazione nelle carceri italiane, un po' affrettata, cioè non organizzata bene, e noi sappiamo quanto l'organizzazione serve sempre, diciamo è fondamentale, è ineliminabile, è sostanziale per fare una lotta, lo ancor di più quando si parla di lotte in carcere, e quando si parla di lotte in carcere che hanno bisogno, come sempre le lotte in carcere, di un grosso sostegno dall'esterno. La lotta in carcere senza sostegno dall'esterno in realtà è praticamente nulla, se non ed anche perdente. Allora il punto è questo, racconta, e questa è la cosa, la delusione maggiore secondo lui, che dopo questa azione repressiva che ha colpito lui come organizzatore di sommossa, sta semplicemente probabilmente preparando in giro, parlando con i compagni di detenzione, di reparto, eccetera, e anche probabilmente scrivendo ad altre carceri, stavano preparando che cosa fare in questi 15 giorni di mobilitazione, organizzare anche i familiari, farli venire fuori un certo giorno, fuori dal carcere, insomma una serie di mobilitazioni così, e l'hanno chiamato organizzatore di sommossa. Vabbè, e però e tu, quando è stato colpito lui, tutti racconta che tutti gli altri detenuti con cui stava discutendo si sono un po' spaventati, troppo spaventati secondo lui, si sono tirati indietro chiudendosi nelle celle. E insomma, perché la, diciamo, le guardie, il maresciallo, insomma, i capi delle guardie facevano circolare la voce che se ci fosse stata poi questa protesta ne avrebbe sarebbe stata punita tutta l'intera sezione, quindi si sono spaventati tutti. E vabbè, poi continua e dice che appunto probabilmente questa cosa verrà superata, i primi giorni si sono spaventati gli altri detenuti, però poi è probabile che le cose che questa mobilitazione vada avanti. Sarebbe utile che Rebibbia tutta alzi la testa insieme al coordinamento dei detenuti a tutte le carceri d'Italia. Il coordinamento dei detenuti è questa sorta di, diciamo, di aggregato che ha lanciato questi 15 giorni di mobilitazione. Ho detto, secondo il mio parere è già la seconda volta che lancia, bisognerebbe prepararle meglio con un dibattito usando ovviamente la posta, ma non con gran parte dei detenuti, costruendo legami tra dentro e fuori, mobilitando il fuori soprattutto, che è molto importante. Comunque sia, c'è ormai, c'è, e cerchiamo di farlo riuscire al meglio questa mobilitazione che durerà 15 giorni e che appunto dovrebbe investire diverse carceri con proteste interne e anche fuori. E infatti questo detenuto chiede aiuto a voi, quindi a tutti gli esterni, attraverso questa radio, quindi la facciamo cioè arrivare a tutti gli esterni, chiedo quindi aiuto a voi, spaccate i timpani, regà, così è romano ovviamente, fatelo sapere ovunque che qui staremo in lotta ai primi di aprile, appunto dal 5, proviamo a portare i nostri familiari qua fuori, è importante che ogni persona sensibile, ogni solidale, ogni complice possa appunto partecipare a queste mobilitazioni, un sit-in pacifico eccetera eccetera, e poi all'interno propone che pensa che stanno ancora discutendo, faranno scioperi della spesa, battiture, il chiudo del carrello del vitto, queste cose qui propongono, e poi vedremo. Insomma, questa lettera volevamo farla leggere perché ci racconta bene qual è il clima delle carceri, e anche soprattutto quali sono i nostri compiti, tanto per usare parole così, insomma, che mettono in chiaro. Allora, che come abbiamo detto più volte, delle carceri in questo periodo ne hanno parlato tutti, dicendo tutto e il contrario di tutto, dal Presidente della Repubblica all'ultimo scribacchino dei giornali, tutti hanno parlato di carcere, dicendo spesso, ovviamente non conoscendo, se non altro perché non conoscono ciò di cui si parla, o anche perché spesso hanno idee un po' balzate in testa. Comunque ne hanno parlato tutti, l'unica voce che mancava era quella dei detenuti e delle detenute. I detenuti e le detenute, la voce in genere la manifestano non tanto con lettere scritte, che pure qualcuno ha scritto al Presidente, al Papa, ai Vescovi, a Gesù, hanno scritto. Non è tanto la lettera, la voce dei detenuti, quanto il loro urlo di mobilitazione, l'urlo di chi, ma tutte, non solo i carcerati e le carcerate, ma tutte, diciamo, le realtà delle classi subalterne, la loro voce la fanno sentire quando collettivamente insieme urlano qualcosa. Che so, è storico il fatto quando i lavoratori di gran parte del mondo quasi all'unisono urlarono 8 ore perché non volevano più lavorare 12-13 ore come si lavorava in quegli anni, urlarono tutti insieme e fu una cosa importante. Non c'erano telefonini, non c'era internet, non c'era neanche il telefono, comunque ce l'avevano in pochissimi, eppure lanciarono, si lanciò viaggiando bocca a bocca quanto è importante questo strumento, è la comunicazione più importante, nessuno strumento tecnologico riuscirà mai a superare la comunicazione bocca a bocca, perché è quella più essenziale, quella fondamentale, è la principale, è il cuore stesso della comunicazione. Tutti gli altri sono, servono, perché nessuno butta via le tecnologie che servono, ma sono di appoggio alla voce, alla comunicazione principale, che è quella che può viaggiare solo bocca a bocca, perché quella è genuina, è sincera, è vera. Quando una persona ti parla e ti guarda negli occhi, tu sai se di quella persona ti puoi fidare o no, sai se lotterà con te o non lotterà con te. Tutte le altre forme di comunicazione non danno questa garanzia. e poi perché comunichi molto di più, e poi perché viaggia più velocemente. Non sembra, dite voi che non sembra, eppure i risultati dicono così. La famosa battaglia delle 8 ore, chissà perché da una parte all'altra dell'oceano uni milioni e milioni di masse di lavoratori e lavoratrici, con uno scontro frontale con gli stati, le forze dell'ordine, il padronato eccetera, e tra l'altro si ottennero anche queste famose 8 ore al giorno, non più di 8 ore al giorno di lavoro salariato subalterno. Questo fu il grido che viaggiò. Ecco, quella è una presa di posizione, quella voce, quella era una voce chiara, una voce che nessuno poteva far finta di non sentire, infatti la sentirono. Certo, costò quello che costò, ma ogni passaggio in avanti costa. Costano pure quelli indietro costano e in più peggiori, quelli in avanti costano, però vai in avanti verso una liberazione, un percorso di liberazione. Quindi c'è questa mobilitazione. Allora, al di là degli errori che bisognerebbe cercare di non fare più, cioè bisogna comunicare molto, lavorare di più nel collegare interno e esterno, cioè costruire strumenti solidi di presenza esterna, comunque sia bisogna portare il carcere nelle piazze, far parlare le piazze del carcere, insomma bisogna mobilitare un po' più nelle città, far sentire più la voce del carcere nelle città. A parte questo, è così, solo all'interno di quello può viaggiare una vera mobilitazione. Quindi le responsabilità maggiori sono nostre intendo degli esterni, e allora di chi sta fuori dal carcere. Comunque ormai c'è questa cosa, facciamo a riuscire il meglio possibile. Ora ci saranno delle mobilitazioni, ovviamente delle presenze, semplicemente presenze, niente di che, presenze sotto le varie carceri. Qui a Roma le carceri sono Regina Coeli, Rebibbia è un complesso, ci sta il nuovo complesso che è il giudiziario, il reclusorio, che l'uno sta via Maglietti, l'altro via Bartolongo, poi andando giù per via Bartolongo si incontra il femminile, la terza casa, insomma questi sono il complesso carcerario di Rebibbia. Ci saranno mobilitazioni sotto le carceri, non solo a Roma, in molte carceri d'Italia ci saranno mobilitazioni interne, e bisognerà seguire questa vicenda. Noi daremo gli appuntamenti, non solo con questa trasmissione, questa radio darà sempre gli appuntamenti man mano che ci saranno. Il problema però, e quindi vi chiediamo di parteciparvi, si potrebbe pure far qualcosa di più, anzi si dovrebbe far qualcosa di più, ciascuno e ciascuna che sta in un comitato, in centro sociale, in un collettivo, in un comitato, che si occupa di qualunque cosa, che uno sta in un centro culturale che si occupa, che so, di pittura. Se una persona, se pensano che la cultura sia un fatto di sensibilità verso la dimensione umana, e beh, come fanno a non occuparsi di carcere? Mentirebbero se non fossero sensibili alla propria carcere. Quindi chiunque, a qualunque titolo sia aggregato, potrebbe portare nel proprio posto, nel proprio ambiente, in questo periodo, ricordiamo la mobilitazione dal 5 al 20, queste due settimane, dal 5 al 20 aprile, quindi prossimamente, potrebbe portare nel proprio posto un aspetto del carcere. Ognuno può scegliere quello che vuole, ci sono tanti materiali, libri, tante persone che possono parlare di carcere, si possono leggere lettere, si può raccontare il carcere facendo parlare, che so, chi c'è stato, chi lo conosce, eccetera. Quindi portare il carcere fuori, all'esterno, nella città, nei collettivi, nei centri sociali, nelle piazze soprattutto, nei posti dove la gente si riunisce. È l'unico modo, è il modo migliore questo per garantire un appoggio a chi da dentro organizzerà le proteste. Ecco, questo è quello che volevamo dire per prima cosa, quindi prepariamoci a sostenere questa mobilitazione dei detenuti e delle detenute che in parte centrale di aprile, dal 5 al 20 aprile, metteranno in moto le loro proteste per segnalare la condizione di inaccettabilità in cui versano le carceri italiane, e per chiedere chiaramente la liberazione dal carcere. L'obiettivo principale che si chiede è la liberazione. Allora, 15:22, 30 secondi, veniamo a un problema scottante, perché è diventato tale dopo che la Consulta, ossia la Corte Costituzionale, è intervenuta per dichiarare incostituzionale la legge Fini-Giovannardi. Ne abbiamo parlato, abbiamo letto la sentenza della Corte Costituzionale, perché abbiamo detto che non era una novità, nel senso che la si aspettava, perché tutti gli organismi internazionali e nazionali, cioè tutti, quindi quelli che si occupavano di sostanze stupefacenti e di lotta anche alle droghe, avevano visto che questa legge era abbastanza sbagliata dal punto di vista di quello che diceva di voler perseguire. Voleva perseguire una riduzione del consumo di marijuana, e ovviamente invece, così come è congegnata, la Fini-Giovannardi non faceva altro che aiutare, favorire il consumo delle sostanze pesanti, delle droghe pesanti, a svantaggio di quelle leggere, ma soprattutto consentiva una sorta di aiutava i grandi trafficanti internazionali, e invece colpiva il piccolo spaccio e il consumo. Era stata fatta proprio, qualcuno aveva sollevato il sospetto che fosse stata scritta, al di là della firma Fini-Giovannardi, ma fosse stata scritta proprio realmente da esperti che sono al servizio dei grandi trafficanti internazionali, perché si colpiva, si puniva, diciamo, allo stesso modo dal piccolo spacciatore che il grande trafficante, e quindi chiaramente lo si favoriva, ovviamente, no? E infatti i dati confermano, perché poi una legge viene verificata dopo 8 anni per ciò che ha prodotto. Che cosa ha prodotto? Che nelle carceri italiane sono stati buttati un sacco di consumatori e piccoli spacciatori. Spesso le due cose coincidono, perché spesso parliamo di sostanze leggere, spesso per procurarsi la piccola dose di sostanze leggere, prevalentemente hashish e marijuana, è chiaro che qualcuno appunto praticava il piccolo spaccio, ma proprio il piccolo, al gruppo di amici, e queste persone sono state colpite e sono state sbattute in galera. Considerate che, secondo i dati, che ancora non c'è un calcolo esatto, ma chi dice 10.000, chi dice 15.000, chi dice 19.000, quindi questo è l'arco, da 10.000 a 20.000 circa va il addirittura Antigone dice il 40% delle persone, lo dice Antigone, quindi che non è, sono degli esperti anche molto attenti a ciò che succede in carcere, e hanno anche un osservatorio interno, cioè vedono, vanno a scartabellare i dati del carcere. Secondo Antigone sono il 40%, secondo altre associazioni vanno 10-15 mila, comunque insomma da 10 intorno ai 20 mila, 15-20 mila dovrebbero essere quelle persone, prevalentemente piccoli consumatori e piccoli spacciatori, che sono stati sbattuti in galera. Una cosa allucinante, spaventosa, vigliacca, anche mafiosa, più che proprio una logica mafiosa ha guidato questa legge. È proprio mafiosa nel suo contenuto. Vabbè, questo lo si fa. La Corte Costituzionale ci ha messo un po' di tempo, i suoi tempi, per carità. Adesso volete mettere fretta, mo? No, ci manca la giustizia, no? Però la dichiara di così. È successo a quel punto dove tra l'altro si sapeva, perché appunto, o comunque quando la Corte Costituzionale, il cui calendario tutte le persone di questo mondo seguono, perlomeno quelli che hanno incarichi ufficiali, no? Si sapeva che l'aveva da mesi, si sapeva che l'aveva messa all'ordine del giorno, e che quindi l'avrebbe, e c'erano buone probabilità che l'avrebbe dichiarata incostituzionale. Quindi un governo, i tecnici del ministero, sapendo, poteva fare due cose: o dire no, è del tutto costituzionale, oppure dire che era incostituzionale. Le due cose, non è che ne poteva fare un terzo. Quindi doveva predisporre, vabbè, se dichiarava che era tutto a posto e era in linea con la Costituzione, non dovevano fare niente. Nel caso avesse dichiarato, come poi ha fatto, la incostituzionale di quella legge, avrebbe dovuto predisporre gli strumenti atti. A che cosa? Al fatto che abbiamo, dal giorno dopo di questa sentenza, ci stanno queste persone che abbiamo detto che oscillano da 15.000 a 20.000, che stanno in galera illegalmente. Sono persone sequestrate illegalmente, non dovevano stare in galera perché stanno in carcere in base a una legge che è anticostituzionale, quindi illegale. Quindi sono stati incarcerati da una banda di criminali che hanno operato al di fuori della legge. Attualmente è così, anche se allora, quando sono stati arrestati, denunciati e condannati, erano in funzione di una legge. Allora, che cosa succede? Per evitare che questa mostruosità continuasse a rimanere, appunto, i tecnici del ministero devono predisporre un meccanismo di un decreto governativo che, appena scattata l'eventuale incostituzionalità della legge, questo permetteva l'uscita dal carcere di questi, una serie di soluzioni, perché queste persone stanno in vario grado, qualcuno è stato già condannato definitivamente, alcuni stanno, che ne so, sono ricorrenti in Cassazione, altri sono ricorrenti in appello, altri stanno in primo grado, altri stanno ancora nella fase processuale, non hanno avuto ancora il primo grado. Quindi quelli non condannati automaticamente dovrebbero uscire, quello dovrebbe essere un meccanismo direttamente della procura, perché la legge è decaduta e quindi queste persone sono del tutto innocenti. Comunque avrebbe dovuto, dall'indomani della sentenza della Corte Costituzionale, della Consulta, dovevano predisporre un meccanismo per risolvere il problema. Invece non hanno fatto questo, non hanno fatto niente. Non hanno fatto niente al punto tale che per una decina di giorni in questo paese tutte le sostanze, tutte, sono state legali. Perché? Perché la Corte Costituzionale la parte che ha dichiarato incostituzionale di quella legge sono proprio le tabelle. Le tabelle che, come abbiamo detto, uniformavano, cioè mettevano sullo stesso piano le droghe leggere e le droghe pesanti, quindi appunto il grande trafficante di eroina era come quello che aveva un grammo di fumo in tasca, pensate che vigliaccata, e che favore alle mafie. Ma in effetti ribadiamo noi, come decine e centinaia di osservatori hanno detto, che questa è stata scritta proprio dalle mafie, poi firmata da questi due personaggi, vabbè, di cui soltanto tutti sanno più o meno. Allora il problema è è successo che per 10 giorni tutte le sostanze sono state completamente legali, perché quello che ha dichiarato il Costituzionale la Corte sono proprio le tabelle, quindi quelle tabelle sono state azzerate. Azzerando quella, valgono quelle precedenti. Le precedenti sono quelle vecchie della Iervolino Vassalli, e che modificate dal referendum che le dichiarava che quello sulla modica sostanza. Però erano talmente vecchie, quelle delle belle vecchie, che non c'erano tutte le nuove droghe di sintesi che nel frattempo sono state prodotte dall'industria mafiosa per buttarle sul mercato. Voi sapete che le tabelle delle droghe illegali vengono aggiornate molto frequentemente, perché c'è una rincorsa tra tutto l'apparato chimico, farmaceutico legato al traffico internazionale di stupefacenti, che è lo stesso che opera poi nella fabbricazione di farmaci legali, e che però appunto fa gli straordinari per la mafia, perché non è che un laboratorio. Sì, a volte la mafia c'ha anche il traffico internazionale, mafia, quindi altre cose, hanno anche dei laboratori loro propri in cui producono, però spesso il laboratorio fa l'un lavoro e l'altro, che so, metti di giorno lavora per l'uno e di notte, perché sono costosi questi laboratori, comunque fanno gli straordinari. Comunque, al di là di questa cosa, non ci interessa. Sta di fatto che tutte le sostanze nuove che dal 93 erano state prodotte, se ne producono a bizzeffe, tant'è vero che, come dicevamo, questa tabella viene aggiornata molto frequentemente per stare appresso a tutte le modifiche che l'industria chimica porta sul mercato, e fa i vari miscugli strani, produce un'altra molecola che ha effetto stupefacente, la butta sul mercato, quella molecola non è indicata nella tabella, e quindi fino a che non viene esplicitata nella tabella tra le sostanze vietate è legale, quindi l'aggiorno in continuazione. È una rincorsa tra i produttori di sostanze nuove chimiche stupefacenti la Commissione Internazionale sulle Droghe, che sta presso per dichiarare, man mano che escono le dichiara illegali nel caso che siano appunto psicotrope. Il grado, cerca di individuarne il grado, eccetera, permette. Ora, quindi dal 93 ad oggi tutte le nuove sostanze, tutte quelle chimiche, perché è stato proprio il boom delle sostanze chimiche questi ultimi due decenni, sono diventate legali, quindi sono girate attorno hanno fatto una cosa. Dopo un po' di giorni si sono ricordati che hanno rifatto un po' le tabelle, riprendendo le tabelle vecchie, riprendendo le tabelle da Iervolino Vassalli e inserendoci tutti i prodotti nuovi usciti nel frattempo. Ma non hanno affrontato il problema sostanziale, che è quello: che fine fanno questi 15-20 mila persone che stanno dentro al carcere? punto di domanda. Possibile che la dabbenaggine dei governanti, oltre tutto il resto, cioè, arriva al punto di non tenersi pronti con una serie di provvedimenti, di decisioni per risolvere un problema che è indecente, cioè dentro le carceri italiane ci stanno questo tipo di persone che appunto nemmeno è stato definito, perché come dico alcuni da 10-15 mila fino a 20 mila e più. I dati sono questi, non ce l'ho, ma ho visto la gran parte delle associazioni, ognuno dice il numero suo, però questo è l'ordine di vanno da 15.000 a 20.000 più o meno, ed è assurdo che lo Stato italiano oggi, in questi ormai circa un mese da quando è uscita questa sentenza, opera come un sequestratore illegale, cioè sequestra 20.000 persone, ma non pochi, in base a una legge che è stata dichiarata illegale e anche illegittima, perché incostituzionale significa le due cose insieme. Vabbè, è un'assurdità, è una cosa da mettersi, strapparsi i capelli, chi ce l'ha o chi pensa, che crede ancora che ci sia una non lo so, come dire, una capacità di governare un problema che poi non è la fine del mondo. Si trattava di predisporre uno strumento legislativo, quindi anche un decreto, in questo caso andava bene il decreto, che diceva nel momento che preparato, se la Corte dichiarava incostituzionale quella legge, si diceva poiché queste persone sono state tutti quelli condannati con questo titolo di reato, con questo articolo eccetera eccetera, verrà condonato, uscirà, cioè predisporre le varie meccanismi così, invece questi stanno ancora in carcere e succederà un disastro, ed è una cosa spaventosa, vergognosa, illegale, mafiosa, fascista, il peggio del peggio proprio. Cioè un governo che chiacchierano, dicono un sacco di stupidaggini e non si occupano di aver sequestrato illegalmente circa 20.000 persone e tenerle sbattute in galera, perché è così, quella legge non va più bene. E insomma, la cosa divertente, penosa poi, è che questo governo, che è un pateraccio, sapete, ci stanno il PD e l'estrema destra, quella lì, cioè la destra, e allora su questo terreno sapete che la destra vorrebbe mandare in galera tutti i ragazzini. Purtroppo ci manderanno pure i loro figli, perché è chiaro che anche i loro figli se fanno lo spinello, tutti quelli che minimamente pensano di potersi fare un giorno uno spinello. Vabbè, hanno litigato all'interno del governo tra la ministra della salute, che si chiama Beatrice Lorenzin, che è dello stesso partito del signor Giovanardi, ossia il nuovo centrodestra, quello di Alfano, quindi che voleva rifare le tabelle, perché appunto erano state dichiarate incostituzionali, voleva ributtarci dentro insieme la stessa tabella Leggeri e Pesanti, non sapendo che ma come quello ti dice che non va bene così e tu lo rifai, cioè facendo un po' la finta tonta in questo caso, però non si fa il finto tonto in questo. Vabbè, insomma, hanno cominciato a litigare tra alcuni del PD e questa signora Beatrice Lorenzin, che voleva appunto ripristinare la Fini Giovanardi, facendo una cosa allucinante, e vabbè, invece poi appunto in questa litigata non hanno predisposto nulla di quello che devono fare, hanno riscritto queste tabelle inserendoci soltanto le nuove sostanze create dall'industria farmaceutica nel frattempo. Vabbè, ora il problema è questo: hanno fatto questo decreto perché dovevano fare queste tabelle, altrimenti girava di tutto, di più, tutto completamente gratuito. Ci sono state delle persone in questi giorni che sono state fermate, arrestate, perché portavano sacchi di pillole, queste pillole chimiche che tra l'altro l'ammazza gente, e li fermavano tranquillamente, questi passavano tranquillamente sotto gli occhi delle guardie, e qualche guardia, non sapendo che cosa era successo nel frattempo, hanno provato a fermarli, ma questi ovviamente non hanno nessun titolo, potevano essere fermati, perché le pillole che avevano dentro non stavano in nessuna tabella, in quanto quella quella del 93 era, non le contemplava, perché non erano state ancora prodotte, quella nuova era stata dichiarata incostituzionale, quindi giravano questi sacchi di pillole tranquillamente e nessuno gli poteva dire niente. Quindi però hanno fatto il decreto subito, in modo che operante, mettendoci le nuove sostanze. Poi hanno detto lo scontro avverrà in Parlamento. Lo scontro su che cosa? Su come adesso congegnare la nuova legge che dovrà sostituire la Fini Giovanardi dichiarata incostituzionale, cioè come mettere in moto le eventuali sanzioni rispetto al consumo delle droghe, e stavolta deve essere differenziato, leggere e pesanti, con una certa gradualità, considerando che nel frattempo è intervenuto il decreto della ministra che è appena uscita, ha detto che nel decreto svuota carcere, l'ultimo fatto in ordine di tempo, quello che è diventato legge a febbraio, convertito a febbraio, decreto di dicembre convertito pochi giorni prima, il 20 febbraio scorso, quindi è legge operante, ha introdotto la piccola quantità di sostanze, nel senso che ha ridotto da 1 a 5 anni la possibilità di punizione per poche quantità, una sorta di modica quantità, per far scendere le condanne di chi sta in carcere, insomma, quindi un po' hanno operato su questo terreno, però insomma, siamo un po' ma comunque a questo punto noi non sappiamo cosa consigliare a quelle persone che stanno in carcere, casomai ci ascoltano, mi piace, ne sono tanti di questo pacchetto di 15-20 mila condannati per quel appunto per aver violato la Fini-Giovannardi, che fine faranno queste persone? Queste devono uscire dal carcere, ora come uscire? Non è che possono aprire la porta e uscire, quindi devono preparare qualcosa per poter, il governo deve preparare qualcosa per poter mettere in moto, gli unici che possono darsi da fare direttamente col proprio avvocato è chi non è ancora stato condannato nemmeno in primo grado, chi sta nella fase processuale, cioè sta nella fase di inchiesta e non ha ancora avuto la condanna di primo grado, con quelli basta che l'avvocato fa una richiesta di cancellazione dell'indagine in corso perché non c'è più il reato, queste persone appunto viene cassata tutta l'inchiesta in corso, quindi questi se stanno in carcere in custodia cautelare, cioè carcerazione preventiva, questi escono a carcere. Tutti gli altri che hanno avuto una condanna, quelli bisogna dovranno costruire un congegno che però non hanno costruito. Il consiglio che diamo noi, siccome se possiamo costringere il governo a fare questo provvedimento, preparate intanto una richiesta appunto di compenso per i giorni di carcere fatti in maniera illegale. Third eye wide when you ride the skyline from London to Tokyo. Thank you. Allora, 15 e 43 minuti primi. Adesso una notizia che ci farà sorridere. Allora, anche perché, come dire, insomma, è una bella patata bollente, però poi uno potrebbe dire da che pulpito viene la predica. È successo che nella civile Inghilterra, il civile potete immaginare tra tante virgolette, soprattutto se parliamo di carcere, ma noi di carceri parliamo, comunque un magistrato di Londra allora la pronuncia inglese, perdonatemi, sarà schifosa, però lo dico perché così sapete qual è, la Westminster Magistrates Court di Londra, insomma un'altissima corte, rispetto alla richiesta del Ministero della Giustizia italiano di estradare un certo personaggio arrestato in Inghilterra, il magistrato presidente di questa corte, il giudice presidente di questa corte, ha, dopo lungo analizzare tutti i dati che portavano la procura che voleva estradare, la difesa che diceva del non estradare, ha stabilito anche, ha voluto vedere chiaro dove andava a finire questo personaggio, e quindi ha fatto fare a dei suoi dipendenti una piccola indagine sullo stato delle carceri italiane ed è arrivata a questa conclusione: non si può estradare il signor Domenico perché nelle carceri italiane non si offrono le adeguate garanzie, non si offrono le adeguate garanzie per il trattamento dei detenuti, punto. Ecco qua. Ora è chiaro che uno potrebbe dire: e guardatevi le carceri vostre, perché noi che conosciamo anche le carceri inglesi, in effetti, insomma, fanno schifo anche quelle, più o meno allo stesso livello, qualche punto è a favore loro, qualche punto è a favore nostro, quelli menano di più, ecco, da essere chiari, non scherzano, hanno le mani pesanti le guardie inglesi, fanno schifo lo stesso. Comunque siamo, questo è un giudice, non avrà mai visto nelle carceri inglesi, né quella me ne non sa niente, però poiché la difesa ha presentato una denuncia circostanziata del fatto che nelle carceri italiane le sentenze della Corte Europea e di Amnesty International, dell'ONU stesso, dicono eccetera eccetera, alcuni dati, meno di 3 metri quadrati per detenuto, le condizioni di isolamento, esempio il 40, questo rischiava il 41 bis, il 41 bis è ritenuto tortura, quindi completamente illegale, poi ognuno, cioè ogni paese, ogni stato c'ha dentro le proprie carceri sistemi di isolamento tutti illegali, però quando ce l'ha un altro, chiaramente quell'altro è palesemente illegale e quindi non può sapete che non si può estradare una persona, questo vale per tutti i paesi che hanno firmato questa convenzione dei diritti dell'uomo, non si può estradare una persona in un paese se non c'è la garanzia che quella persona sarà inserita intanto non ci deve essere la pena di morte, e va bene, e in Italia per fortuna non c'è la pena di morte, non c'è quella ufficiale, poi l'altra, che venga inserita in una struttura carceraria, in un sistema penitenziario adeguato, con un trattamento, con una garanzia di trattamento di rispetto dei diritti umani, di rispetto dei bisogni e delle necessità del detenuto, con forme che non ci siano forme di isolamento ritenute degradanti simile alla tortura, come il 41 bis, in Italia c'è tutto questo, e quindi ha detto: non posso estradarlo in Italia. Attualmente questa persona, che tra l'altro c'ha una pena abbastanza lunga, vive a Londra nella sua casa, ha pagato chiaramente la cauzione di 20.000 sterline, e sarà nella sua casa a londinese col braccialetto, con la cavigliera elettronica, e potrà comunicare con la stazione di polizia vicina, però appunto non è stradato. Adesso poi ci sarà il ricorso e vedremo un po', insomma, sta di fatto che insomma è divertente, perché questi, poi immaginate questi giudici londinesi anziani di questa, della Westminster Magistrate della Corte, una delle corti più importanti, queste cose che stanno nei libri di storia, no? Questi si sentono i giudici del mondo intero, no? Per carità, un po' eccessivo, loro pensano ancora di essere a capo dell'impero inglese, il più vasto che mai storia umana abbia visto, queste cose qui, che hanno secondo loro hanno plasmato il diritto internazionale, la giustizia internazionale, la civiltà internazionale, insomma tutte queste baggianate qui, questa prosopopea che caratterizza questi personaggi, no? Che vediamo nei film, queste aule di tribunale o di corti tutte piene di legni massicci, scure, nere, buie, brutte, cattive, insomma, insomma. Però questo incalzato dalla difesa ha detto vabbè, io devo sapere dove mando un detenuto, perché questo dice la legge. Ha fatto fare una piccola inchiesta ai propri dipendenti e dall'ufficio suo è uscito fuori che i carceri italiani sono abbastanza una fedenzia, e ha detto io non posso estradarlo in questa fedenzia e quindi va attaccate, e buongiorno. Ora la cosa divertente, no? Se uno vede, nessun giornalista si è messo a commentare, ma i giornalisti veramente, no, quando c'è una cosa interessante, anche sfiziosa, no? Questa poteva essere commentata, ognuno poteva dire, per esempio un giornalista, se ci fosse un giornalista o una giornalista indipendente, cioè in grado di ragionare con la propria testa, non è che ci voleva una grossa scienza per capire, avrebbe potuto fare questo commento: se tutti ragionassero come il giudice Pinco Pallino della Corte di Westminster, no, si bloccherebbero le estradizioni, perché tutte le carceri di ciascun paese, di qualsiasi paese, ne prendete una a caso, fanno tutte schifo, stanno tutte al di sotto di ciò che dice la Convenzione dei diritti dell'uomo, che dice il detenuto deve essere garantito nel rispetto della sua personalità, bla bla bla. Nessuno rispetta queste leggi, quindi nessun giudice dovrebbe estradare un detenuto in quel paese, perché andrebbe a finire in un mondessaio. Ovviamente il mondesario c'ha pure dentro casa, però quello deve fare l'opera di estradizione, quindi deve fare un'opera volontaria, deve firmare un atto di estradizione, e farebbe chiaramente un atto, diciamo, non esaltante né per la sua carriera né per il, perché manderebbe una persona in un posto il cui rispetto dei principi, dei diritti, è contrario alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, quindi il famoso articolo 3 della dichiarazione, che ovviamente nessuno rispetta. E quindi si vorrebbe fare così un commento: bene, facciamo tutti come il giudice, non c'è il nome di questo giudice, insomma si può pure cercare su internet, però non merita la cosa, comunque, in modo che si bloccherebbero le estradizioni di tutti verso tutti i paesi, perché tutti stanno in questa situazione. Allora, 15:52, ci avviamo alla fine e riflettiamo su i dati, non sono ancora ultra definitivi perché ci mettono tempo, i dati dei cosiddetti reati nell'anno passato, il 2013. Siamo a marzo, a fine marzo, però ancora il dato è, come c'è un termine che non mi riviene adesso in mente, insomma, praticamente è ufficioso, comunque sono quelli, sì, poi ci sarà una virgola di meno, una virgola di più, però insomma i dati sono usciti fuori in maniera abbastanza chiara. C'è quindi questo calo dei cosiddetti delitti più gravi, quindi omicidi, violenze sessuali, tutto questo c'è un buon calo, un notevole calo di questi tipi di reati, e mentre invece c'è un aumento delle rapine e i furti in appartamento, quindi altri piccoli reati contro il patrimonio, e i reati, diciamo, del diciamo, i reati che connettono al fallimento, no? Al fallimento delle piccole imprese, che è numerosissimo, insomma, di frodi, furti in appartamento, piccoli furti, però e anche le rapine, però le piccole rapine, per esempio le rapine in banca invece sono in diminuzione, addirittura del 5% sono calate, quelle negli esercizi commerciali sono calate del 4%, quelle nelle abitazioni sono aumentate del 2,5%. Questi sono più o meno i dati che si riscontrano. Nel complesso c'è una più o meno del 2013, sono il totale dei cosiddetti reati sono gli stessi del 2012, però appunto continua il trend, perché questo trend è antico, cioè questa tendenza del calo dei reati gravi, quelli contro la persona, omicidi, ferimenti, reati sessuali, violenze sessuali, e mentre in crescita quella appunto contro il patrimonio, sia di una parte, sia quindi furti, rapine eccetera, sia quelli di frodi, bancarotta fraudolenta della parte, cioè delle imprese, diciamo. Quindi sia quelli di chi perde lavoro e deve in qualche modo sbarcare il lanario, sia di quegli altri, che appunto degli imprenditori che non hanno più, che non possono fare, chiudono e fanno bancarotta fraudolenta per problemi della crisi economica. Quindi, come vedete, la gran parte del monte reati potrebbero essere risolti, si potrebbero comunque affrontare con dinamiche di carattere economico e non di carattere penale. Questa è la vecchia in senso che risale a parecchi anni fa, a più di 150 anni fa, della critica del cosiddetto diritto, fatta da ambito, diciamo così, uno dei primi che denunciò l'inesistenza del diritto fu proprio Carlo Marx, perché è dipendente dalla situazione economica, e sempre più. E allora i dati non erano così espliciti come adesso sempre più ti dicono che il 90% dei reati sono legati all'andamento della situazione economica, quindi si vorrebbero risolvere, affrontare comunque con provenienti di carattere economico, non con tutto quell'apparato, tra l'altro costosissimo, incasinatissimo, che sono le guardie, le carceri, i tribunali, i giudici, i magistrati, gli avvocati, tutta questa roba qui. Il 90% della cosiddette violazioni di legge riguardano condizioni economiche, perché settori sociali improvvisamente, di fronte a un andamento economico di un certo tipo, hanno delle grosse difficoltà e non possono farvi fronte se non in maniera estralegale. Questo è il discorso, e questo discorso come si affronta? Affrontandolo in termini economici. E invece no, sì, fatto è che no, ovviamente non lo risolve, perché per dire il furto, se è dovuto al fatto che c'è gente che ha perso il lavoro, non lo trova, e quindi c'ha zero salario, zero reddito, in una situazione urbana dove non c'è manco il pezzetto di terra che ti coltivi la patata, è chiaro che non può altro fare, per mettere qualcosa sotto i denti, di andare a rubare. E allora se anche tu l'arresti, è uguale, cioè quel tipo di quella fascia di persone che sta a zero reddito non può che non serve la deterrenza di carattere penale, casomai si servirebbe appunto una soluzione di carattere economico. Comunque questi sono i dati che stanno, ormai li riportano un po' tutti, sono abbastanza definitivi, e insomma, il problema che va riflettuto è che, nonostante il calo dei delitti, quelli più fastidiosi, quelli più contro le persone, c'è una percezione di insicurezza, cioè calano, questo non è un dato soltanto italiano, anzi è generale, calano le violenze e le aggressioni alle persone, quindi i reati più gravi contro le persone, per esempio quelli per strada stanno praticamente, non dico scomparendo, ma sono sempre minori. Le violenze contro le persone che avvengono per la strada sono in diminuzione enorme, quindi stanno scomparendo. Tuttavia la sensazione di insicurezza delle persone sta crescendo. Com'è questo dislivello? Com'è questo gap tra realtà e percezione? Evidentemente su questo operano i media, dai giornali, soprattutto penso di più alla televisione, altri che invece cercano di instillare l'insicurezza, perché su quell'insicurezza poi ci producono un sistema di governo, cioè l'insicurezza permette di non solo di mantenere in piedi l'apparato penale punitivo, ma anche di incrementare appunto la paura, quindi la gente spaventata in genere non si organizza né produce mobilitazioni, lotte eccetera, la crea subalternità, la paura, insomma questo è il meccanismo più o meno che si sta vedendo. Comunque le trovate più o meno su tutti i giornali, l'andamento dei reati anche dettagliati, se volete divertirvi a vedere i numeri e le tendenze negli anni, sono ormai definitivamente usciti. Ecco, la sigla ci ha preceduto, cioè preceduto di un minuto scarso la sua partenza, e noi siamo arrivati appunto in termine della trasmissione e vi salutiamo. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Ricordiamo ciò che abbiamo detto inizio di trasmissione, se qualcuno si fosse messo in ascolto a metà trasmissione, che appunto abbiamo letto una lettera proveniente dalla Re Bibbia in cui ci segnalavano le mobilitazioni, cioè l'attività per attuare una mobilitazione intorno nel periodo che va dal 5 aprile al 20 aprile, periodo in cui dovrebbero svilupparsi una serie di iniziative in diverse carceri italiane, e che appunto dovrebbero vedere, e questo è quello che ci chiedevano esplicitamente, una mobilitazione fuori dalle carceri, non solo fuori dalle carceri a sostegno delle proteste dei